sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé, sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato, ed intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione, studenti incriminati che si rafforzerà la polizia, perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è accettata la promessa del sempre, tu che spingi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non sai, e cerca insomma tu di farti una cultura, e giù libri legati e letti mai. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato, metti la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è. Chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità. Chi confonde il pranzo con la colazione, chi confonde la salute con l'età. E da migliaia d'anni non cambia la storia, Giulio Cesare, tabù, testa pelata. E il copione ormai lo sanno tutti a memoria, e la solita non cambia la menata. Colpo di stato, ma che colpo se lo stato qui non c'è. Colpo di stato. Ma lo stadio, aspetta, vengo insieme a te. Ascoltatori che ci ascoltano, frequenze nell'etere. Questa è banda armata dall'aula occupata P2 dell'unica. Noi siamo vicini al ponte di Pietro Bucci, questa grata ferrata che ci abbiamo stampato nel cuore. E questa è banda armata, che la trasmissione in cui il collettivo prende voce e si apre e manda la sua voce verso l'esterno. Noi dobbiamo salutare anche i nostri ascoltatori in replica, gli ascoltatori del futuro, che sono quelli che ci ascolteranno a Radio Ciroma venerdì alle ore 15, alle ore 17, e quelli che ci ascoltano quest'altra web radio sensazionale, Transizione di Fase, il martedì alle ore 20. Ricordiamo il sito di Transizione di Fase, transizionedifase.org. Detto questo, noi ci apprestiamo a iniziare, come sempre, con la rubrica più scoppiettante che esista. Il tappeto sonoro di una persona che ormai è rimasta nella storia, in tutte le storie, in tutti i settori, avrete un sussidiario qualsiasi di storia, c'è questa persona, Luca Abbate. Noi gli dedichiamo tutto. Luca, siamo con te. C'è chi parla di Luca Abba, noi parliamo di Luca Abbate. E quindi questa è la sua rubrica, la segna stramba. Abbate, dica! Banda Abbate, dove? Rassegna stramba, il tappeto sonoro di Luca Abbate. Allora, iniziamo a parlare di un problemino che ha colpito in questa settimana la provincia di Cosenza e non solo, tutta la regione. Si parla dello sciopero degli autotrasportatori, in quanto c'è una protesta in corso contro la delibera regionale 147 dello scorso 30 marzo, che prevede una razionalizzazione del trasporto pubblico locale, e si parla dunque di tagli in termini chilometrici, e quindi tagli per quanto riguarda il personale. Infatti solo nella provincia di Cosenza si contano ben 150 posti che potrebbero appunto perdersi. Gli scioperi si sono svolti soprattutto con una manifestazione a Catanzaro che è stata chiamata da un sindacato autonomo, la FAISA CISAL, Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri, che chiede la revoca di tutti i tagli e l'introduzione di clausole di garanzia del posto di lavoro. Per quanto riguarda Cosenza e Crotone, gli scioperi sono svolti diversamente. Infatti a chiamarli sono stati la UIL, la CGL e la UGL, richiedono praticamente, in particolare il leader della UIL richiede in particolare ai vertici della provincia di Cosenza un incontro e un chiarimento con il governatore della regione Scopellitti, in quanto non ha solo tirato delle belle sforbiciate sulla sanità cosentina, ma si parla di 3 milioni di chilometri di tagli nella provincia di Cosenza per quanto riguarda gli autotrasporti, sui 4,5 che riguardano l'intera regione. Quindi ciò che si pensa è quello che magari chi era stato accusato di malizia aveva pensato che Scopellitti all'inizio di questa sua candidatura e della successiva vittoria potesse appunto avvantaggiare la sua provincia, la provincia reggina, adesso sta diventando qualcosa di più concreto. Quindi lasciamo, diciamo, ai posteri la tua sentenza e, come dice Luca, per il momento ci allacciamo le scarpe e ci teniamo pronti a macinare chilometri. L'ultima cosa che mi viene in mente di notare è che adesso, dopo questi tagli di chilometri, si stanno rubando talmente tutto che anche col taglio di chilometri adesso avremo una Calabria più corta, perché giustamente tagliando i chilometri adesso sarà più piccola. Lanciamo uno spazio musicale, cosa dici, Ross? Andiamo, vai Peppe. We'll be right back. che riguarda l'Unical si tratta dell'apertura di due nuovi dipartimenti. Uno è il Dipartimento di Lingue e Scienze della Formazione, voluta soprattutto da Francesco Altimari, che è il presidente del centro linguistico, ed è comunque un professore che si è sempre impegnato sul concetto di intercultura e sul multilinguismo, soprattutto per quanto riguarda le minoranze linguistiche. Sicuramente è un'iniziativa molto positiva, perché mentre prima si pensava che si dovesse rispettare il limite dei 12 dipartimenti, ora vengono aperti sia questo di lingue e un nuovo dipartimento più specifico sull'ambiente, voluto invece dal professore Pasquale Versace, direttore del Dipartimento di Difesa del Suolo, che ha difeso, diciamo, l'accorpamento di questa facoltà con quella di ingegneria civile. Infatti, secondo il professore, questa prospettiva avrebbe comunque implicato una perdita di forze, di autonomia e di valore per quanto riguarda l'analisi e la salvaguardia ambientale. Così il nuovo dipartimento viene indicato con la dicitura territorio, ambiente e ingegneria chimica. E a proposito di ambiente, arriviamo a una notizia che riguarda l'Italia. Si tratta della riapertura della centrale elettrica di Porto Tolle, che si trova vicino alla delta del Po. La causa di questa nuova centrale a olio combustibile è la presunta emergenza delle forniture di gas dalla Russia per il freddo di questi ultimi giorni. Dobbiamo ricordare che questa centrale era stata chiusa ed erano stati rinviati a giudizio amministratori e dirigenti dell'Enel per non aver appunto applicato le dovute tecnologie di abbattimento dell'inquinamento. Sono stati fatti degli studi dall'Istituto Nazionale Tumori di Milano che dimostrano l'impatto delle emissioni della centrale quindi un aumento delle malattie respiratorie nella popolazione milanese residente qui intorno alla zona. Per quanto riguarda la riapertura di siti che possono devastare l'ambiente, torniamo qui in Calabria e parliamo della discarica di Alli, un fiume di Catanzaro, discarica che è stata sequestrata dalle Fiamme Gialle, in quanto vediamo che l'azienda che la gestiva, la Enertech, oltre ad aver evaso tasse e aver speculato sui finanziamenti, praticamente se la giocava con Menandri, ex commissario all'emergenza ambientale, e con Attanasio, ex responsabile ufficio legale del commissariato, per quanto riguarda appunto lo spartimento, per capire come sfruttare meglio i finanziamenti dello Stato. Infatti sono stati sequestrati ben 28 milioni, anzi oltre i 28 milioni, e dall'inchiesta escono fuori anche tracce di percolato che dai rifiuti venivano praticamente scaricati nel fiume. In più, con l'ingrossamento del fiume vengono anche trascinati via questi rifiuti, e la conclusione di questa storia è che Speranza, il responsabile del commissariamento dei rifiuti, fa riaprire la discarica. Una cosa semplicemente emozionante. Così finalmente potremmo dire, a ragion di logica, che a Catanzaro c'è tanta, è in immondizia, insomma, no? Questa per ed ecco, stimolato il caro Peppe Lounge risponde all'attacco. Vabbè, che Catanzaro era ammonizia, si sapeva, voglio dire, questo non c'era bisogno, è una cosa sconta. Speranza, secondo me, si sta rifacendo, perché non l'ha presa bene la cosa che l'avevano, diciamo così, gli avevano annullato tutte le delibere, no? Quindi adesso lui si sta rifacendo, no? Perché ci teneva a far capire che, guardate, che non sono stato messo da parte del TAR, no? Il le delibere del TAR, certo, quello è una cosa che ha sofferto, come ha sofferto anche i nostri continui attacchi alla sua autorità. Passiamo avanti, per parlare di un'altra delle annose questioni che riguardano l'ambiente in Calabria. E restiamo in tema di ambiente quando parliamo di Veolia, la società che controlla la grande parte degli acquedotti calabresi, associata con partecipazione pubblica all'interno della Sorical, e gestisce non solo, anche delle l'inceneritore di Gioia Tauro e alcune discariche. Nel complesso, questa società che si vanta è rimasta nella storia per tagliare l'acqua interi comuni morosi o per aver fatto degli investimenti pari a zero. Questa minaccia di andarsene dalla Calabria, vorrebbe andarsene cercando di raggranellare tutti i soldi che riuscirebbe a portarsi via. D'altra parte, non è la prima volta che notiamo come industrie, come aziende del genere campino su quelli che sono i finanziamenti statali. E quando finisce la manna, allora vogliono andare via. Al momento però la questione rimane aperta e si dovrà vedere ancora tra un po' cercheranno di svincolarsi. Di sicuro hanno avviato la formazione di un'azienda nazionale gestendo altri tre inceneritori, se non sbaglio due in Toscana, non mi ricordo bene dove, e cercano magari, stanno giocando a cercare un partner italiano per continuare questa dura lotta per l'inquinamento e per come dire, la gestione dei servizi che dovrebbe gestire il pubblico. Noi ancora una volta ripetiamo il fatto che i servizi devono essere gestiti dal pubblico e sotto il controllo dei cittadini, e per questo non potevamo non parlare della nostra cara amica dolce Veolia, contro la quale abbiamo detto tante cose in campagna referendaria. Peppone, una canzone a tema, per cortesia, una canzone che parli in qualche modo di Veolia. Vai. Told the coachman, just drive me home. It's the same old destination, but the different worlds, the same. Man. techno didn't have a place in the sun, so they slipped behind a rainbow and laid there until we had done. Oh, and the rain wasn't made of water, and the snow didn't have a place in the sun, so they slipped a bomba fuori onda radio, la trasmissione che vi stupirà. Noi salutiamo, cogliamo l'occasione per salutare gli ascoltatori del futuro che ci ascolteranno domani su Radio Ciroma. Quali sono le frequenze della Ciroma? 105.7. Grande, preparatissimo Matteo, domani venerdì alle ore 17, e salutiamo anche i coloro che ci supportano come i ragazzi di Transizione di Fase, che su cui andremo in onda martedì alle 20. Grandissimo, Transizione di Fase. E in più vi ricordiamo una cosa che vogliamo dirvi con un attimo di sentimento. Noi stiamo cambiando, ci stiamo ristrutturando. Esatto, noi cambiamo, e come tutti quanti scelgono di cambiare, di trovarsi in loro spazio, noi migriamo verso il mercoledì. Dal giovedì passiamo al mercoledì 18:30 su queste frequenze, giusto per non farvi giocare a calcetto. Esatto, sappiate voi, noi vogliamo anche aprire una come dire, un confronto con i giocatori di calcetto, perché se è vero come è vero che è importante il calcetto, noi non possiamo affermare che il calcetto è più importante di tante altre cose. Comunque, cosa ne pensi del calcetto, Regina? L'Italia è una brutta piaga per gli italiani, il calcio. È vero. Come si suol dire, come è scritto nella nostra Costituzione, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul calcetto. E questa è la giusta introduzione per l'argomento di cui andiamo a parlare, io trovo, no? Parlare di lavoro. La riforma del lavoro che il governo sta mettendo in atto. Quindi senza calcetto non c'è lavoro. Esatto, e chi non lavora? puntini sospensivi. Il governo a questa domanda, chi non lavora, puntini sospensivi, no, non ha ancora dato una risposta. Sappiamo per certo che sta mettendo in campo una riforma del lavoro a dir poco spaventosa. Come abbiamo detto anche qualche settimana fa in un'iniziativa Si esce dalla crisi senza diritti, il governo ha una risposta chiara che continua a mettere in campo in maniera serrata. Ricordiamo che Monti è colui che è rimasto nella storia dei nostri cuori per aver affermato che ci sono state due cose che per me stanno facendo cambiare veramente l'Italia: il modello Marchionne e la riforma Gelmini. Ricordiamo che sono state tra le due cose più atroci che se ne sono abbattuti sulle condizioni di vita dei cittadini. Scusa? No, però l'hanno fatta cambiare, in peggio, ma l'hanno fatta cambiare. esatto. La logica è giusto. Ma l'altra cosa divertente è quella sul lavoro. Il lavoro, cioè, è lavoro al posto fisso, è una monotono. È monotono. È noioso. Esatto. Che è sto posto fisso? Invece no, noi non dobbiamo sapere quello che ci aspetta domani. Dobbiamo essere sempre così, in movimento, sempre dinamici, insomma, è noioso. Rossella, tu lo vuoi il posto fisso? No, raga, io preferisco una vita attiva. Esatto, noi, tornando alla vita attiva, cosa c'è in questa riforma del lavoro? Questa riforma del lavoro sostanzialmente va a mirare all'attività dell'articolo 18, rendendolo disattivo. Sostanzialmente introducendo riformando l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che dice che sostanzialmente chi viene licenziato senza una giusta causa deve essere reintegrato, e facendo questo in qualche modo tutela i lavoratori dal fatto che aziende in crisi possono decidere di tenersi i profitti e mandare a quel paese i diritti dei lavoratori. Invece, appunto, con l'argomentazione di voler avvantaggiare, stimolare le aziende a essere più competitive, essere, a crescere meglio, il governo ha deciso di permettergli la libertà di licenziare quanto cazzo vuoi. Nel senso che puoi scaricare benissimo quelle che sono i tuoi mancati introiti in bilancio, perché magari non hai fatto investimenti, perché magari semplicemente stai campando sui finanziamenti pubblici, come parlavamo pure prima di alcune aziende. Adesso puoi licenziare a gratis. Come fare? Ecco le istruzioni per l'uso ecco le istruzioni per l'uso del buon licenziamento. Viene introdotto anche oltre al licenziamento discriminatorio, che quindi è quello senza una giusta causa, viene introdotto anche il licenziamento disciplinare, quello di tipo economico. Il licenziamento disciplinare sostanzialmente è applicabile a coloro che fanno i cattivi. Pensiamo, la prima cosa che ti viene in mente quando pensi a fabbriche, cattivi, qual è? Fio. Ah, hai visto? Pomigliano. La prima cosa che ti viene in mente rispetto a fabbriche, cattivi, co? Speranza. Una risposta alternativa. Oh, Speranza. Invece cose cattive. Gianni. Ecco. No, Gianni. Che sei tendenzioso. Sei tendenzioso. Tu sei antidemocratico. Detto questo, coloro che fanno attività sindacale potrebbero essere benissimo passibili di licenziamento disciplinare. Cosa prevede il licenziamento disciplinare? Che è possibile che ti reintegrino, di sicuro ti devono pagare fino al massimo 27 mensilità, più il tempo che sei stato licenziato, insomma. Come titolo di rimborso. Invece, udite, la grande rinnovazione è il licenziamento di tipo economico, ovvero il licenziamento per motivi di bilancio. Sostanzialmente questa cosa, la grande innovazione tecnica, è che non c'è scritto assolutamente niente di come è definito, cioè quali sono le motivazioni, i principi per i quali uno economicamente può licenziare. Semplicemente venuti per un vago motivo economico. C'è un motivo economico, licenziamo persone. Quindi, se diciamo così, l'imprenditore cosiddetto padrone, no? Sbaglia a investire perché non lo so, quel giorno dove sono i rischi dell'azienda? Arrivato a questo punto. E perché noi dobbiamo pagare i rischi dell'azienda? E mettiamo caso che si apre un mercato del lavoro con un costo del lavoro più basso, il lavoratore italiano non è produttivo, no? Ce ne andiamo in America, ha detto Marchionne. Se va bene, se no abbiamo tutta un'altra serie di fantastici paesi, andiamo dalla Macedonia, all'Albania, insomma. Casomai comunque va lui, noi resteremo qui e resteremo con qualcosa di più dentro di noi. No, qualcosa di più. Qual è la cosa bella? La cosa bella è che se tu per motivi economici ti dicono che sei stato licenziato per motivi economici, ti danno un semplice rimborso dai 15 a 27 mensilità e tu devi essere contento. Quindi le aziende si possono fare benissimo dei conti, dicono mi conviene o non mi conviene tenerlo, ma quasi quasi lo licenzio e gli do qualche spicciolo. Beh, questa è la ricetta italiana per l'uscita dalla crisi. Benvenuti nella giungla. Vai Peppe. Yeah. Allora, scusatemi una cosa, ci arriva dai nostri simpatici media attivisti greci la notizia che loro hanno appoggiato dei manifesti della destra e loro hanno scelto di promuovere l'opposizione del governo Monti a partire da Storace, che è un noto media attivista romano che ha fatto dei manifesti in opposizione al governo Monti citando appunto una foto in cui i suoi compagni greci apportavano uno striscione con scritto "Stasera muore il fascismo". Un bacio al nostro caro patuffolone amoroso Storace e un saluto ai compagni greci. Detto questo, noi lo crediamo Storace, è credibilissimo. Esatto, sì, soprattutto quando dice "stasera muore il fascismo". Beh, allora, se lo dici tu, mi risparmi anche la fatica, insomma, mettiamola così. però una cosa la dice vera, la gente potrebbe anche crederci, sul fatto dell'opposizione al governo Monti. Mi dica una buona ragione per opporsi al governo Monti. Perché, sai, troppo debole nelle liberalizzazioni, scusami, ti rendi conto? Ancora non ha fatto abbastanza, no? Ancora la grande lobby dei tassisti al suo posto, la grande lobby dei lavoratori stipendiati al suo posto. Dove sono statali, lei parla degli statali, queste sanguisughe. Ma è incredibile, gli studenti universitari, quali grandi, enormi sanguisughe, vampiri del vero e proprio motore della crescita, dei Carini, che sono il motore della crescita italiana, dei Montezemolo, degli Elkan, dei Lapo Elkan, che sono... Marcegaglia. Che sono quelli che fanno dire alle persone "sono fiero di essere italiano". Ah, è vero, è vero. Sembra la pubblicità della Panda. Detto questo, lei mi fa venire in mente un fatto che è successo qualche giorno fa ad Arca Vacata, quando hanno arrestato proprio ad Arca Verde, in una dolce villetta studentesca, un pericoloso killer della mafia tra i centri ricercati più importanti in Italia. Così giusto. Però almeno come abbiamo detto noi in maniera così tra di noi. Ma scusi, lei sta dicendo? Dico, killer tra gli studenti. Sì, però no, riflettevamo sul fatto che lui, in ogni posto dove poteva andarsi da nascondere, ha scelto l'università. Così nel tanto tempo piglio un libro, leggo qualche dispensa, no? È anticonformista, non trova? Sì, sicuramente. Il mitra li ha posati, ha preso i libri, in pace, quieta, ad Arca Verde. Che romantica. Si è convertito. Dove volevamo arrivare? Bella domanda. Io volevo arrivare a dire che mentre c'erano polizia a dire basta, a pioggia, cubi, polizia quanto basta, che urlava "esci fuori, non fare pazzia", c'erano dei signori fuori che soprattutto dicevano "avete visto questi studenti sempre a drogarsi, sarà sicuramente un fatto di droga". Avete visto? È per questo noi diciamo che quasi l'università potremmo pure chiudere questi drogati. Cosa vengono all'università a drogarsi? Questo è. Funziona. Un po' basso. Vabbè. E questo è la cosa. Noi vogliamo gente che lavora. Vogliamo gente che lavora. Viva la mafia. Viva. se prova. Perfetto. Questo ci riporta al governo Monti? Certo, ci riporta al governo Monti, perché ha dei livelli di disoccupazione del 31%, di precarietà giovanile al 47%. Abbiamo dei problemi a concepire quale risorse si potranno portare avanti, spremendo ancora di più i lavoratori. Magari se tagliassimo le rendite finanziarie, che vengono tassate un quinto di quanto viene tassato uno stipendio di un lavoratore dipendente, forse troveremo molti più soldi. Semplicemente se io ho dei soldi e giocando in borsa riesco a decuplicarli, c'è un problema che è grande quanto una casa, molto probabilmente. Detto questo, noi vogliamo dire un'altra cosa, qualche altra cosa sul governo Monti, lei che è del dottor Letta. semplicemente sulla mafia, vorrei collegarmi molto viva alla mafia, sottolineando il fatto che la mafia ad oggi è l'unica grande impresa che non ha delocalizzato. Anzi, che aumenta le importazioni. Non solo, ma aumenta anche gli ingressi, voglio dire, assume, caspita si assume, Tempo indeterminato, peraltro, Alle prossime elezioni vota mafia. Vai, Peppe. Ricordare che oltre ai tagli soliti del governo, parliamo sempre delle stesse cose, il taglio della cipolla. Il taglio della cipolla è stato un rito iniziato dalla Fornero e adesso vediamo anche Rosy Mauro a Porta a Porta, l'avete notato, no? Che per aiutare la loro lacrimuccia facile danno un incentivo agli agricoltori di cipolla e Vediamo lacrime in televisione. Non il perché ufficiale, lo sappiamo, ma in realtà non si è capito bene. Sono ben altri momenti di commozione che quelli che vorremmo offrirgli. Si tratta di commozione cerebrale. Adesso passiamo la parola al dottore Matteo Letta con la sua rubrica C'era una volta l'università. Io non ho mai C'era una volta l'università, dove scorgava libero e felice tutto il sapere del mondo. Ma un brutto giorno baroni banchieri, rettori ordinari si nascosero in un cespuglietto nei pressi della fonte. E mentre il povero studente si apprestava ad abbeverarsi alla fonte del sapere, ministri, professori saltarono fuori e ne fecero un sol boccone. C'era una volta l'università, la rubrica di approfondimento universitario che stavate aspettando. Allora, dunque, c'era una volta l'università. Ebbene, c'era davvero una volta l'università. Infatti, nel grande pacchetto delle riforme, delle liberalizzazioni che portarono il paese verso un nuovo sol dell'avvenire, tra l'altro speriamo in un'eclissi a breve, essenzialmente cosa succederà? Succede, per quanto riguarda l'università, Samuele sta morendo, tra parentesi, succederà un bellissimo provvedimento che comporterà il definitivo blocco e il taglio al valore legale del titolo di studio. Essenzialmente questa è una proposta, tra l'altro è uscito 3 giorni fa, il 16 aprile su Sole 24 Ore, un bellissimo articolo che spiega bene perché è giusto tagliare il valore legale del titolo di studio, un articolo che credo che spero sia comico onestamente, ma insomma poi lo analizzeremo meglio nel dettaglio. Essenzialmente il titolo di studio se è quella garanzia che pone la collettività e lo Stato a tutela del fatto che una persona che ha seguito un certo percorso di studi ha acquisito delle competenze. Insomma, una cosa terrificante, una cosa sovversiva, una cosa tremebonda dalla quale rifuggire per molti. Infatti viene addirittura come il secondo grande tabù che verrà a essere sconfitto dopo il fantomatico articolo 18 del quale già abbiamo parlato in precedenza. Ma essenzialmente questo taglio si va a ricollegare a una più generale riforma di quello che dovrebbe essere il sistema universitario. Sistema universitario che di conseguenza dovrebbe trovarsi completamente mutato, nel senso che chi propone questa riforma essenzialmente valuta un dato che in effetti è drammaticamente reale, e cioè che c'è un dislivello fra le università. Ci sono delle università di serie A e delle università di serie B, per carità, verissimo. Ci sono dei poli di eccellenza e dei poli magari meno eccellenti. Allora, qual è la risposta? La risposta è una risposta terrificante che va a minare quello che è il diritto allo studio. Università cosa vuol dire? Università vuol dire centro del sapere che si propone di veicolare dei contenuti di cultura in un determinato territorio, favorendone la crescita. Di conseguenza l'università non c'è un'università a livello teorico di serie A e di serie B, ma c'è un sistema universitario. Questo sistema universitario quindi non ha di per sé, per sua natura, delle differenziazioni. Le differenziazioni subentrano dopo. E come interviene il grande sol dell'avvenire che ci presenta innanzi? Ogni volta utilizzi questa parola, questa locuzione, sono 50 euro che mi devi dare di copyright. Di simpatia. E vabbè, insomma, sostanzialmente si risponde con che cosa? Si risponde col taglio dei rami secchi. Essenzialmente, quindi, l'università non è più un valore, non è più una risorsa per il territorio, ma attraverso queste riforme che vogliono puntare a una differenziazione delle università, perché già nell'ultimo decreto approvato, il mille proroghe, che si provvederà ad aumentare la competenza e l'importanza di quegli studi esterni che devono in effetti valutare le singole università, ecco, si arriverà ad una differenziazione paradossale delle università a livello qualitativo, che in effetti c'è già, ma questa legittimazione istituzionale sarà un antipasto ricco e succoso al definitivo taglio dei rami secchi, secondo un modello che è stato già sperimentato. Di conseguenza esisteranno dei pochi piccoli circoli di eccellenza a scapito delle altre università che magari non sono sicuramente centri di eccellenza, ma sicuramente in buona misura comunque svolgono una funzione che è quella teorica, cioè quella di veicolare dei contenuti culturali all'interno del territorio. Perciò potremmo assistere, e probabilmente assisteremo alla scomparsa pressoché totale delle piccole università, delle medie università. Questo è un problema, e questo è un problema sicuramente serio, e appunto tutto parte dall'abolizione del valore legale del titolo di studio, che appunto cosa fa? Dice semplicemente che non vale il pezzo di carta conseguito a Camerino Macerata, come a Unical, come all'Università degli Studi di Casa di Samuele, ma essenzialmente, tra l'altro abbiamo qui il rettore dell'Università degli Studi di Casa di Samuele, che vuole dirci una parola. Una parola dolce? Sì. Torta. Grazie per questa parola dolce. E l'alternativa era zucchero, diciamo che stiamo migliorando. Quello è un cantante. Anche vabbè. Purtroppo non è arrivato in diretta questo meraviglioso excursus poetico fra Dante e Petrarca, dimostrazione dell'alto livello di cultura che si respira nell'aula occupata. E dunque, essenzialmente, ritornando a quanto stavamo dicendo, essenzialmente quindi non varrà più il pezzo di carta in sé, ma varrà chi te lo dà. Cioè vale, che l'Università degli Studi di Samuele, di Casa di Samuele, vale di più rispetto a Unical o rispetto all'Università di Camerino Macerata. E dunque questo percorso è in effetti il precursore della fine delle università medio-piccole, che potranno reggersi o attraverso un aumento enorme delle tasse, che tra l'altro già sta avvenendo, ed è opportuno ricordare che gli studenti italiani sono i terzi studenti europei per entità di soldi destinati all'università sotto forma di tasse, secondi dopo Olanda e Regno Unito, che sicuramente dispongono di sistemi universitari un attimino forse più all'avanguardia. E d'altro canto, dunque, questo sistema arriverà oppure all'ingresso massiccio, che già sta avvenendo e che è già avvenuto, dei privati nelle università. Cosa comporterà questo? Comporterà essenzialmente una enorme motivo di indirizzo nella ricerca e nella didattica. Essenzialmente I privati hanno sempre fatto gli interessi dell'università. Interessi del bene pubblico, lui. Del bene pubblico o del bene pubblico? Del bene comune. Ah, vabbè. Poi se il pubblico è comune, comunque è da definire. Questo lo vedremo in una seconda puntata. E dunque, essenzialmente, quindi succederà questo fenomeno che abbiamo detto, e quindi i privati entreranno e dirigeranno un'università. Un'università, per reggersi, sarà in mano ai privati. Quindi la ricerca sarà gestita per i privati, quindi le imprese decideranno cosa ricercare e in che modo ricercarlo, e gli effetti, li possiamo immaginare. Comunque, ritorniamo a questo simpatico articolo di Giacomo Vaciago, che è uscito sul Sole 24 Ore, perché in effetti è un paradigma comico. Volevo leggere... Prima di leggerlo possiamo mandare un pezzicello? E mandiamo un pezzicello, e io credo che potrei farle scegliere a Peppone, va? Essere scaltri, niente scrupoli, rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me. Parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Come le supposte abitano in blister full optional, con cani oltre 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivo col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo, e sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medico i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come fruit of the loom che diventano più rossi di un livello di loom. E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Tu per sé, io per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fanno cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica, che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono. Allora, dunque, procedendo in questo fantastico viaggio nel come cambierà l'università, ovviamente in peggio, questo era sottinteso, e dunque, e continuiamo quindi citando un pezzo, questo pezzo citato sulle 24 ore, che è molto, molto intelligente e molto simpatico, se appunto fosse tutta una grande battuta, purtroppo non lo è. Cito: la gravità della crisi economica e la sofferenza in cui si trovano le famiglie italiane rischiano infatti di pregiudicare gli sforzi che si intendono dedicare al miglioramento delle nostre università. Tra parentesi, quale miglioramento? Se non garantiamo con gli strumenti opportuni la mobilità degli studenti. Nella nostra Costituzione è chiaramente indicato il diritto dei giovani capaci e meritevoli di andare a studiare nelle università migliori. Diritto che non potrà essere garantito tenendo basse le tasse, tutte le tasse universitarie. Cioè, allora, facciamo una breve analisi del testo. Dunque, è diritto degli studenti che si studi nelle università migliori, ammesso e non concesso che le università migliori debbano esistere. Abbiamo detto che l'università assolve una funzione di tutela della cultura e di salvaguardia della cultura, non è un'impresa, non ha degli oneri di produttività, deve essere semplicemente volano di cultura. Quindi già il fenomeno di università migliori implica mettere la cultura in un sistema di mercato dove c'è un miglior prodotto e un peggior prodotto. Ma ad ogni modo, la parte divertente, ammesso, lasciando passare questo dogma liberista che è terrificante, è appunto che lo studente capace e meritevole deve andare a studiare nelle università migliori. Questo diritto però, vista la crisi economica in cui imperversano le famiglie, non potrà essere garantito tenendo basse le tasse universitarie. Allora, c'è la crisi, le famiglie, allora, facciamo, io non ho capito, Regina neanche, quindi cerchiamo di capire insieme. Samuele sbatte la testa contro il muro, quindi diciamo che non ha capito neanche lui. Ecco, allora, dunque, le famiglie sono in crisi. Ok, va bene, ci siamo. Non hanno soldi. Il figlio deve andare a studiare all'università. L'università per funzionare deve funzionare meglio. Allora si aumentano le tasse. Ma queste tasse chi le paga? Ma se la famiglia non ha soldi, no? Perché c'è la crisi? No, sorvoliamo su perché c'è la crisi. Dove andiamo a prendere i soldi per andare noi meritevoli alle università migliori? Non lo sappiamo. Questa è la grande domanda con la quale vorremmo lasciare i nostri ascoltatori. Capito, allora il diritto equivale ad avere i soldi. Addirittura, quindi mi stai dicendo che siamo in una repubblica fondata sul denaro e sulla divisione tra classi. Interessante, non l'avevo mai sentita questa cosa. E insomma, quindi tra l'altro vorrei